Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. Le 7:20 minuti ci siamo per la lettura dei giornali, la rassegna stampa di 24 mattino. Cari ascoltatori, siamo qui puntuali per scoprire che cosa ci riservano i quotidiani in edicola. Andiamo! Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh! Oh, la voce di padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, che spesso ci accompagna in questi suoi... in queste sue introduzioni nella rassegna stampa, e oggi tra poco partirò proprio da lui. Cosa hanno combinato all'ordine dei giornalisti contro padre Livio Fanzaga? Vabbè, intanto i titoli, andiamo con ordine. Siamo a mercoledì 21 giugno, le aperture, il Sole 24 Ore, i dazi anti-Cina, offensiva dell'Unione Europea. Questo è il titolo di prima pagina, il primo sì dell'Europarlamento al nuovo sistema contro il dumping, l'onere della prova a carico dell'esportatore. Poi molti quotidiani aprono sul caso Raggi, sindaco di Roma, 5 Stelle, che ora rischia il processo. Questo è il titolo più gettonato. Raggi ora rischia il processo per il Corriere della Sera, Repubblica, falso e abuso, Raggi verso il processo, e anche però Consip, il PD salva Lotti coi voti di Forza Italia. Questo è il titolo principale di Repubblica. La Stampa, abuso d'ufficio e falso, Raggi verso il processo. Il Messaggero, nomine, Raggi rischia il processo. Per il Giorno c'è la foto di Virginia Raggi, il titolo è La grande tristezza. Poi la vicenda Consip, per la verità, il grande imbroglio, il Senato insabbia lo scandalo del caso Consip. Il Fatto Quotidiano, Consip, Forza PD, salva Lotti e company e tenta di cacciare Woodcock. Mentre il Manifesto, aspettando Gotor, che è stato il più duro nei confronti del governo sul caso Consip. Ma eccolo qui, Libero, zittita Radio Maria, titolo a tutta pagina. Libero apre, e io non posso non aprire con questa vicenda, visto che insomma padre Livio ci introduce un po' la rassegna stampa con queste sue siglette, che, per le quali lo ringraziamo per sempre. Critica la Cirinnà, bavaglio a Radio Maria. La vicenda è presto detta. L'ordine dei giornalisti ha, anzi quello che viene definito da Vittorio Feltri, l'ordine sovietico dei giornalisti, ha imbavagliato anche padre Livio Fanzaga, che però a me non risulta che parli ancora, nel senso che la sentenza definitiva di censura nei suoi confronti è datata addirittura a dicembre dello scorso anno, 15 dicembre, eppure parla. Comunque, perché è stato zittito e censurato padre Livio Fanzaga? Per le sue parole che disse nei confronti della senatrice Cirinnà, quella che si batte anche per le adozioni ora, per le coppie omosessuali. Disse padre Livio: Monica Cirinnà, lei questa qui che adesso brinda prosecco alla vittoria, signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla, glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello. Per queste parole padre Livio Fanzaga è stato messo sotto accusa dall'ordine dei giornalisti per violazione dell'articolo 2,1, per aver tenuto un comportamento lesivo della professione nell'inosservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, e l'articolo 9 del codice deontologico, la tutela del diritto alla non discriminazione, comma 1, laddove nell'esercitare il diritto dovere di cronaca il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. Ora io dico, ma avrebbe violato questi codici, queste norme del codice padre Livio Fanzaga? Saranno frasi molto forti quelle che ha detto: arriverà al suo funerale, anche se glielo auguro il più lontano possibile. Adesso brindi, ma arriverà al suo funerale. Ma insomma, mi sembra che censurare per un'opinione, seppure fortissima, molto forte, anche molto discutibile se volete, E zittire per una cosa del genere mi sembra davvero incredibile ed esagerato. Comunque, viva la libertà di padre Livio Fanzaga di dire quello che vuole. Questa è la mia personale opinione, anche se sono opinioni di questo tipo, a mio modo di vedere, non condivisibili in questo caso. Però, insomma, la libertà di espressione è discretamente un valore da rispettare, io credo. Allora, per rimanere in tematiche ecclesiastiche, anche se un po' più serie e profonde, se volete, c'è un giallo in Vaticano, come scrive oggi Massimo Franco sul Corriere della Sera, Massimo Franco a pagina 23. Massimo Franco è sempre molto ben informato riguardo a quello che succede in Vaticano. Il giallo delle dimissioni del revisore, il timore di un terzo VatiLeaks. Succede che Libero Milone, 68 anni, manager italiano, è stato il primo revisore generale della Corte dei Conti nella storia della Santa Sede, nominato il 9 maggio 2015 nell'ambito di una riforma delle finanze vaticane voluta proprio dal Papa, ieri si è dimesso. E in queste dimissioni, come tante cose che succedono in Vaticano, non è che ci sono molte spiegazioni. Inutile negarlo, scrive Massimo Franco. È un momento delicato per il Papa e non vogliamo precipitare in un terzo VatiLeaks. La missione arriva da Casa Santa Marta, residenza di Francesco, dentro la città del Vaticano, e proviene da una delle persone più addentro alle questioni finanziarie della Santa Sede. Ma non si tratta di una reazione a caldo. Le dimissioni di Libero Milone, primo revisore generale dei conti vaticani, date ieri al Papa e subito accettate, tingono di mistero i contorni della riforma delle finanze vaticane. Eppure non appaiono inaspettate. Milone, 68 anni, tra l'altro ex presidente e amministratore delegato di Deloitte, una delle maggiori società mondiali di consulenza, se n'è andato con 3 anni d'anticipo rispetto alla scadenza dell'incarico. Di comune accordo, si precisa, ma nel comunicato scarno col quale ieri pomeriggio si è fatto sapere che Milone ha dato le dimissioni e il Papa le ha accolte, non c'è alcuna spiegazione. E questo moltiplica le voci sulle vere ragioni di una rottura che in Vaticano qualcuno paragona a quella con Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR nel maggio 2012. Deve averla fatta grossa, azzarda un cardinale con grande dimestichezza. Sono state fatte filtrare dal Vaticano indiscrezioni secondo le quali proprio Milone, controllore dei controllori, sarebbe incappato in una indagine interna, ma è ancora troppo presto per capire dove stia la verità. E questo è l'inizio dell'articolo di Massimo Franco che parla di un timore di un terzo VatiLeaks, cioè documenti che fuoriescono dal Vaticano e poi verranno pubblicati. Vedremo, vedremo. Una notizia che riguarda tutti i genitori che sono alle prese con i cellulari, gli smartphone e i figli. Argomento: genitori, figli, cellulare. Vedo subito tutti, ecco, dimmi, tutti questa gente che sta mettendo la freccia per ferma, gente che saluta la suocera, aspetta che ci deve dare una notizia su genitori, figli, cellulare. Ecco, la notizia è questa, sul Giorno, 2 pagine per dire smartphone vietati ai bambini. Succede negli Stati Uniti, ma è un movimento che si sta allargando un po' in tutto il mondo. Al grido di fanno male, in Colorado i genitori, quindi siamo negli Stati Uniti, chiedono un referendum per vietare la vendita di smartphone ai minori di 13 anni. Vietare la vendita. Siccome i genitori sono disperati, io per primo, non riescono a controllare l'esondazione dell'uso del cellulare da parte dei figli, allora si pensa a vietarne la vendita, come se questa fosse una soluzione. Comunque, scrive Veronica Passeri sul Giorno, in tempi di ragazzi digitali fin dalla culla, la proposta arriva dal Colorado, America, dove un gruppo di genitori vuol sottoporre agli elettori una legge che imponga ai negozianti non solo di non vendere dispositivi ai più giovani, ma di chiedere agli acquirenti l'età di chi sarà il proprietario del cellulare. Se non si ha 13 anni, niente, negato. Ma sono diversi paesi del mondo che pensano a limitazioni. Il Belgio ha lanciato un paio di anni fa una campagna preventiva per salvaguardare i più piccoli dall'esposizione di onde elettromagnetiche dei telefonini. In Irlanda una proposta di legge punta a vietare la vendita di smartphone ai minori di 14 anni e a sanzionare con 100 euro i genitori che li lasciano da soli connessi a internet. Come fa uno poi andare a controllare che sia connesso in casa senza il controllo dei genitori? In Giappone, nella città di Karija, 3 anni fa le autorità hanno imposto il divieto di usare smartphone dopo le 21 a 13.000 bambini tra i 6 e i 5 anni. Sono tutti tentativi. Prima Mauro Corona ci ha detto di fermare il fiume con le mani. Il fiume è il mondo in cui viviamo, ipertecnologico, insomma, quella roba lì. Non ci si può fare granché. Forse bisogna, e lo dico per primo con un tono mesto, dedicare più tempo a questa cosa, essere un po' più severi, entrare in battaglia con il casco tutti i giorni, mettersi in trincea nei confronti dei figli e ingaggiare una battaglia quotidiana, perché loro sono pronti a farla tutti i giorni sul cellulare, e quindi noi tutti i giorni, dopo aver lavorato 8-10 ore, dopo aver pagato le bollette, aver pagato le tasse, aver stati nel traffico, dobbiamo entrare nella battaglia quotidiana da vincere tutti i giorni in trincea. Non c'è altro modo. Non c'è altro modo. Va bene, siamo all'articolo che più mi fa incazzare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. Franco Giubilei da Forlì racconta per La Stampa che ci risiamo. E come sempre, quando racconto storie di questo genere, dico: non guardate il dito del santone, del guaritore di turno. In questo caso è una santona anche abbastanza famosa, Mamma Ebe, denunciata nuovamente a 84 anni per abuso della professione medica. Non guardate a lei, guardate a chi si rivolge a lei, a chi si rivolge ai santoni, a chi fa la fila davanti ai finti guaritori. Ebbene, all'età di 84 anni, Mamma Ebe non ha perso il vizio, si è beccata una nuova denuncia per esercizio abusivo della professione medica, perché assisteva, tra virgolette, una donna affetta da problemi di fertilità che era stata costretta dal marito a suon di minacce e percosse a sottoporsi a trattamenti prescritti dalla santona, e cioè unguenti miracolosi. Miracolosi, tra virgolette, anche qui. Tutto questo succede a Forlì, dove lei è già ai domiciliari. Mamma Ebe, denunciata a 84 anni, anche dai domiciliari, finte cure. Del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Mila, lo ius prime noctis dell'informazione. Va bene, anch'io mi associo, giustamente oggi è il giorno della maturità e dunque il grande in bocca al lupo che soprattutto Giuseppina da Modena vuole fare alla propria figlia Ada, ma che vada questo in bocca al lupo a tutti i ragazzi, tutte le ragazze che stanno per affrontare la prova di maturità. Ale, non copiate troppo. No, scherzo, no, dai, mamma mia. Adesso l'ordine mi censurerà per qualche violazione nel codice di qualcosa. Allora, la giornata politica, la Consip è finita di fatto, le 5 mozioni, quanti erano ammesse, con un nulla di fatto, nel senso che, racconta Marco Galluzzo, per esempio, a pagina 2 del Corriere della Sera, la coda parlamentare della vicenda Consip, in primo luogo giudiziaria e politica, trova al Senato una maggioranza compatta che invita il governo a cambiare in modo rapido i vertici della centrale acquisti della pubblica amministrazione. Le contorsioni di un Parlamento che in pochi giorni ha visto 5 mozioni cambiare in modo vorticoso, puntando ora sul ministro Lotti, ora sullo stile del governo Renzi, oppure sulla difesa degli stessi, alla fine sono sfociate in un testo di maggioranza rielaborato dopo le dimissioni del CDA della Consip dal capogruppo del PD Zanda, che è passato con 185 sì, 76 no. Si fa notare che ci sono i voti anche di Forza Italia, i voti di Verdini in asse con il PD. Questo è il titolo, per esempio, di pagina 2 del Corriere. Consip passa del PD con Forza Italia e Verdini, ma ora Boschi torna nel mirino. C'è anche questa battuta del senatore Romani di Forza Italia. Che succede? Niente succede. Ci scambiamo i voti con il PD. Alle 5 di pomeriggio Paolo Romani non gira intorno alla faccenda, la stessa franchezza di un addetto stampa di lungo corso, niente, tutti si sono fatti una gran pubblicità sui giornali con dichiarazioni violentissime, ma poi alla fine chi è che lo vuole davvero far cadere questo governo? Ecco, la domanda del senatore Romani nell'articolo di Alessandro Trocino, commentata dallo stesso Trocino, già. Chi lo vuol far cadere? Come far capire? Nessuno. C'è anche questa battuta riportata da La Stampa a pagina 3. È una battuta del senatore La Torre che dice, non si sa se in maniera ingenerosa oppure no, l'articolo è di Ugo Magri, in retroscena, pagina 4, senatore La Torre, qui si stanno preparando tutti alle vacanze e non c'è nessuno che le voglia mettere a rischio con qualche mossa da matti. Ma come? Ma tutta la questione? Si va a votare in agosto, Paletto e Secchiello. Paletto e Secchiello, sì, va, bravo, fa il gesto di Pinocchio, il nostro Carmelo Lauricella. Cioè, a dire, in realtà... È stata un po' anche la scena della Consip, la vicenda di due pugili un po' stanchi che fanno finta di combattere con dichiarazioni roboanti sui giornali, ma poi la prova dell'aula, un nulla di fatto. L'unico che è stato veramente duro e che ha messo a dura prova, secondo i giornali, la pazienza di Gentiloni, oltre che di Renzi, è il senatore Gotor, che in un intervento molto appassionato al Senato ha parlato di potere nel triangolo Fivizzano-Laterina-Pontassieve, dunque il cosiddetto giglio magico, il potere renziano di Boschi, eccetera, un potere in questo triangolo in cui si è usato troppo spesso la squadra e il compasso toscani, quindi riferimenti alla massoneria. Questo ha detto in aula e ribadisce in un'intervista a Repubblica, in un'intervista al Manifesto, il senatore Gotor, tanto che raccontano di un Gentiloni infuriato. Gentiloni che perde la pazienza per questi riferimenti di Gotor alla massoneria. L'ira di Gentiloni, il sospetto dei Dem, vogliono consegnarci a Silvio. Pagina 7 di Repubblica, Goffredo De Marchis dice, scrive: Paolo Gentiloni è irritato e sconcertato per l'attacco violento del movimento dei Bersaniani contro Luca Lotti e quindi contro il suo governo. Non sfugge neanche al Premier la dose di ambiguità di una forza politica che dice di voler sostenere l'esecutivo a tutti i costi, ma si smarca ogni volta che può. Questo sul caso Consip. In tutto questo pare che l'amministratore delegato della Consip, Marroni, abbia dichiarato, questo almeno racconta il Corriere della Sera con Lorenzo Salvia, questa frase che viene estirpata, diciamo, dalla sua bocca: han trovato il capro espiatorio, del resto chi tocca Lotti muore. Così si sfoga l'amministratore delegato di Consip Luigi Marroni, che ora pensa a scrivere un libro in cui racconta le proprie verità. L'altro caso politico del giorno è Virginia Raggi, sindaco di Roma, abuso e falso, rischia ora il processo. Lei dice: vado avanti tranquilla e spiegherò tutto. Si è presentata ieri in TV a Carta Bianca, da Bianca Berlinguer, su Rai 3. In realtà i giornali raccontano di una situazione, e anche con retroscena, di un Movimento 5 Stelle un po' in subbuglio, il gelo dei vertici 5 Stelle, il caso Roma ci trascina giù. Questo è il titolo di pagina 3 del Messaggero. Il timore per i ballottaggi ora alle amministrative, la linea dura di Casaleggio che dice lei è lei e noi siamo noi, quasi una sorta di presa di distanza. Questo ovviamente però è nel retroscena, quindi sono tutte frasi per cercare di capire quale sondare quali sono gli umori all'interno del Movimento 5 Stelle. Certo, ora si teme anche che dal processo possano uscire nuove carte con i colloqui, e la linea sulle dimissioni pare questa: dimissioni solo se ci sarà la condanna anche solo in primo grado. Questa è la situazione per quel che riguarda il comune di Roma. Caro Mauro Meazza, come vedi sono contento di anticiparti sempre con notizie dal fronte giudiziario. Se vuoi ce n'è una anche su Formigoni e i motivi della condanna a 6 anni. Ma prego, caro Alessandro, prego tu. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, indagati, condannati, inquisiti. E a proposito, no, verrebbe da dire Mauro Meazza. Vabbè. Caro Alessandro, ricordati che oggi con il Sole 24 Ore c'è un focus dedicato alle nuove regole dell'antiriciclaggio che sono cambiate, e a questo proposito ti inviterei a non sottovalutare quel che leggerai sulle pagine di Norme e Tributi religiosamente sul fatto che dal 4 di luglio basta con i libretti al portatore, basta con questo uso che poi non è tracciabile, e come sai quello che non è tracciabile poi induce in tentazione. Allora si è deciso, è una delle tante norme sull'antiriciclaggio, si è deciso appunto anche questo passaggio. Oh, ma già hai citato il titolo nostro di apertura, quindi sui dazi anticina, guarda che è un passaggio importante, leggi tutti i particolari in pagina 3, perché sta cambiando la modalità di applicazione dei dazi contro la concorrenza sleale, quindi è un passaggio decisivo, mi verrebbe da dire, prendendo a prestito questo aggettivo che ti è caro. Invece ti segnalo che sono andati forte, tu non hai voluto poi ieri mettermi due eurini, ma sono andati forte questi bond argentini a 100 anni. Sì, c'è stata una richiesta per quasi 10 miliardi di dollari, ne hanno poi piazzati 2 miliardi e 75. Quindi voglio dire, tutto bene, leggi avidamente da Finanza e Mercati. Un'altra volta però, quando ti dico di entrare in società, pensiamoci un momento. Oh, poi... Ma sai, con un interista è che... Vabbè, non è che dobbiamo comprare un giocatore. Compravamo dei bond, vabbè. Poi tra 100 anni tu li ritiravi, io chissà, ma vediamo. Ti vorrei segnalare, adesso mi hai fatto perdere il film, ma era importante invece, perché per Radio Fisco... Sì. Per Radio Fisco, Radio Fisco, attenzione. Qui Radio Fisco, attenzione, bisogna fare il ricalcolo, come col navigatore, ricalcolo degli acconti per via dell'ACE, l'aiuto alla crescita economica, cambia la regola con la manovra diventata legge. Allora leggete su Norme e Tributi, e che dovete fare, rassegnati, come dici tu, nel senso di persone che ascoltano la rassegna. Tutti i particolari in Norme e Tributi, come, che dire, vi sono vicino, cari amici, che dovete rifare il ricalcolo a pochi giorni dalla scadenza. Oh, e poi invece una cosa molto seria, leggerai sulle pagine di Imprese e Territori che c'è un problema di siccità. In particolare risultano già colpiti i settori lattiero, caseario e anche l'ortofrutta. Ti spiega tutto Francesco Prisco sulle pagine di Imprese e Territori, che tu leggerai quindi scrupolosamente. Care massaie, preparatevi dunque a pagare. Lattiero, caseario, ortofrutta, capisci che abbiamo toccacciato una buona parte della tavola. Vedremo, speriamo che così piova, non troppo, ma il giusto. Alessandro Milan, quello che mi risolleva il morale prima del compito di greco. Oh, ma dai, magari adesso devi fare anche la maturità, non lo so. Comunque, cara donzella, cara ragazza, forza, forza, forza, se invece sei già in vacanza, ancora meglio. Allora, cari ascoltatori, le notizie dall'estero non sono mai belle notizie, soprattutto se riguardano il terrorismo internazionale, che, ripeto, ormai non è neanche nell'apertura dei giornali, ma ieri ancora fiamme spari, ucciso un terrorista alla stazione di Bruxelles. Uno scoppio, poi un incendio, racconta il Corriere della Sera con Ivo Caizzi, un'esplosione, un piccolo incendio prima delle 9 di sera nella stazione centrale di Bruxelles, situata poco distante dalla storica piazza Grand Place, e subito si è pensato, e così è, un attacco terroristico. Si è rilanciato dunque il clima di tensione dopo i drammatici attentati all'aeroporto di Zaventem, nella metropolitana di Melbeek, sempre a Bruxelles. E il dato di fatto è che poi è stato neutralizzato, come si dice in questi casi, dopo l'intervento dei militari, questa persona. Insomma, ogni giorno, non ogni giorno ovviamente, ma troppo spesso ci sono queste notizie da raccontare. Io invece, che ho un particolare interesse a tutto quello che succede in questo regime totalitario, cioè la Nord Corea, voglio fare un plauso sia al Corriere della Sera sia al Foglio, perché hanno dedicato, il Corriere della Sera, una pagina, il Foglio una lunga storia, alla vicenda drammatica di questo studente americano Otto Warmbier, che è stato condannato a 15 anni di lavori forzati in Corea del Nord per aver rubato un manifesto dal corridoio di un albergo, e che è stato riconsegnato da Nord Corea agli Stati Uniti solo quando era in fin di vita, e poi è morto 3 giorni dopo essere stato riconsegnato appunto dai nordcoreani, dal regime di Pyongyang a Washington. Ebbene, Guido Santevecchi racconta la sua storia. Nord Corea, il mistero di Otto dietro la morte dello studente americano, un regime feroce, 2 donne che trattavano su missili e nucleare. Leggete questa storia a pagina 13, così come Giulia Pompili racconta sul Foglio la storia appunto, anche in maniera molto dettagliata, di questo studente americano che ha avuto solo, come dire, forse l'ardire di fare una vacanza, certo in un posto abbastanza azzardato, ha compiuto questo gesto, no? C'è anche il video che gira di avere staccato un manifesto elettorale, perché un manifesto elettorale, un manifesto di propaganda del regime, voleva portarlo a casa, cioè, capite? Accusato e condannato in un processo farsa a 15 anni di lavori forzati e poi di fatto ucciso dalla Nord Corea. Comunque, questo lo trovate su Corriere e Foglio. Qualche notizia di cronaca qua e là prima di chiudere. Mourinho, allenatore famoso in tutto il mondo, il fisco spagnolo all'attacco di Mourinho. La squadra degli ispettori incastra l'allenatore, ora al Manchester United, accusato di aver evaso oltre 3 milioni di euro. I precedenti sono Lionel Messi, Cristiano Ronaldo accusato di evasione per 14 milioni, Lionel Messi 4 milioni e 100. Quando si va in Spagna si creano sempre questi tipi di problemi. L'ultima tocca a Mourinho, racconta Elisabetta Rosaspina a pagina 14 del Corriere della Sera. Poi, lavoro, attenzione, lo faccio vedere anche adesso sulla mia pagina Facebook, pubblica AAA Bagnini Cercansi, la Riviera Romagnola è senza 1000 stagionali, Giampaolo Iacobini racconta pagina 20 del giornale, un'intera pagina, mancano baristi, camerieri, cuochi e soprattutto Bagnini, ma come i mitici Bagnini della Riviera Romagnola, mitologici, non ci sono più, e quindi se volete potete trovare un posto di lavoro lì. E poi vi segnalo una vicenda che ci riporta a 43 anni fa, ma la strage di Brescia, di Piazza della Loggia, 28 maggio 1974, è arrivata ieri la sentenza definitiva contro un ex leader di Ordine Nuovo e un informatore degli 007. E dunque una verità giudiziaria ufficiale definitiva, come racconta Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, pagina 17, confermata dalla Cassazione, la condanna a Carlo Maria Maggi per aver svolto funzioni organizzative e direzione e Maurizio Tramonte per aver partecipato a riunioni in cui l'attentato veniva organizzato, l'attentato di Piazza della Loggia 28 maggio 1974. E dunque un ex capo del movimento neofascista Ordine Nuovo e l'ex informatore del servizio segreto militare sono colpevoli di questa strage. Siamo alla carta costa, articolo più inutile scavato sui giornali, ma in realtà è l'articolo che leggerò con maggiore attenzione. L'aperitivo fa bene! Una pagina della verità, lo dice Ippocrate, perfino Ippocrate diceva che il vino prima dei pasti fa bene, dunque una pagina su quello che ci aspetta con i cocktail all'italiana in questa estate 2017. Ma chi se ne frega!